Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. La gestione economica dell'automobile si fa sempre più impegnativa per le famiglie italiane. Allora, quali sono le notizie degli ultimi giorni? Per la verità si sono davvero concentrate. Molte delle più grandi compagnie petrolifere sono coinvolte in un'inchiesta della Guardia di Finanza sull'illecito, sostengono le Fiamme Gialle, aumento dei prezzi dei carburanti. E questa è una notizia che ieri ci aveva abbastanza interessato e ce ne siamo occupati a lungo nel corso anche dei nostri approfondimenti con il giornale radio. Però i costi non riguardano solamente il pieno che si deve fare all'auto. Nel 2012 gli italiani hanno speso 2 miliardi e mezzo di euro per far revisionare i loro veicoli con un costo medio di circa 105 euro, in aumento dell'1,92% rispetto all'anno precedente. Dal 2 aprile sono aumentate anche le tariffe previste per molte delle pratiche auto come iscrizione e passaggio di proprietà. Intanto gli incentivi auto 2013, tema a cui avevamo dedicato una puntata di Salva Danaio i primi di marzo, disponibili a partire dal 14 marzo, come previsto, si sono esauriti in poche ore. E allora abbiamo messo un po' di carne al fuoco, tanta per la verità, per affrontare oggi il tema auto a 360 gradi a Salva Danaio per fare il punto sui costi da sostenere per il mantenimento dell'automobile, e facciamo anche un punto sugli incentivi, come sono andati e appunto chi è che ha fatto incetta di questi. Di questo sostegno appunto per l'acquisto delle auto, soprattutto ad alta vocazione ecologica. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. Che peso hanno nel vostro bilancio familiare i costi di gestione dell'automobile? Raccontatecelo anche al 349 238 6666. Se avete fatto il tagliando, la manutenzione ordinaria, la revisione di recente, quanto vi è costata? Ci confronteremo questa mattina con i nostri ospiti. Ci potete anche scrivere al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, su Facebook il nostro profilo è salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter @salvadanaio24. I nostri ospiti di stamattina saluto, ci terrà compagnia per tutta la trasmissione Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, la Federazione Italiana dei Concessionari. Presidente, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Nel corso della trasmissione ci collegheremo anche con Vincenzo Ciliberti, responsabile area centri revisione della Confartigianato, e con Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia. Prima di tutto però naturalmente la borsa. Allora, la borsa oggi è contrastata in Europa perché sono proprio negative. Parigi e Francoforte erano già piuttosto prudenti e deboli in apertura, poi hanno peggiorato nel corso delle ore di contrattazione della mattinata. Parigi adesso perde lo 0,8%, Francoforte perde un punto. Perde anche lo 0,9% Londra, che si distingue Madrid e Milano, anche se vedo che anche Milano sta perdendo lo smalto che aveva accumulato nel corso delle prime ore di contrattazione. Trattazione appunto di questa giornata. Milano adesso segna più 0,34%. Mercato che ancora ragiona sui commenti rilasciati ieri da Mario Draghi nella conferenza stampa che a Francoforte ha seguito la riunione del direttivo della Banca Centrale Europea. Tassi fermi nell'Eurozona allo 0,75%, ma Mario Draghi ha detto, visto che l'economia non si riprenderà come nelle attese nella seconda parte del 2013, è vista ancora più debole del previsto, è probabile che potremmo mettere mano ai tassi di interesse, almeno l'ha lasciato capire che la BCE è pronta a fare questo intervento. Ma a parte i tassi di interesse non è stata annunciata nessun'altra iniziativa straordinaria di stimolo monetario sulla linea di quanto aveva fatto invece ieri mattina la Bank of Japan, la banca centrale del Giappone, con una borsa che tra l'altro su queste indicazioni continua a correre anche stamattina per il Nikkei più 1,58%, per cui il mercato un po' deluso preferisce appunto riprendere la via del ribasso in Europa. L'appuntamento centrale della giornata è con il dato sulla disoccupazione americana che aspettiamo nel primo pomeriggio dagli Stati Uniti. Arriva anche la bilancia commerciale americana oggi. Quali sono i temi di piazza affari su cui gli investitori si concentrano? Mediobanca in rialzo di 3 punti, Enel più 2,21, Enel Green Power più 2,15%, Banco Popolare più 1,88, Autogrill più 1,85, Intesa San Paolo Tauro più 1,85%, lo stesso, Dia Sorin più 1,81%, Popolare dell'Emilia Romagna più 1,73%. Perdono invece terreno i titoli della moda, dell'uso, Salvatore Ferragamo meno 2,64%, Luxottica meno 1,72%, Popolare di Milano, grande protagonista di forti rialzi degli ultimi tempi per la sua trasformazione in SPA imminente, il titolo oggi invece perde l'1,60% e l'Ottomatica meno 1,57. Euro in recupero sul dollaro, sopra quota 1,29. Stamattina lo spread fra BTP e Bund viaggiava al di sotto, poco al di sotto di 330 punti base, è arrivato anzi anche a 324-325. Direi che per la borsa è tutto, andiamo subito al tema di oggi che abbiamo differenziato appunto in vari blocchi nel corso della trasmissione. Il primo tema del quale parliamo è un po' il costo complessivo dell'auto per il bilancio familiare. Gli italiani pagano un prezzo sempre più salato per acquistare e mantenere la propria automobile. E non si tratta soltanto dei costi di carburanti, riportati alla ribalta della cronaca con l'inchiesta della Guardia di Finanza, che vede coinvolte alcune delle più note compagnie petrolifere, ipotizzando reati di rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato. C'è il rincaro inarrestabile delle polizze RC Auto, un'anomalia tutta italiana. Costa di più fare la revisione della vettura e da pochi giorni sono aumentati anche i prezzi per alcune delle pratiche più comuni. Sul fronte di chi l'auto vuole acquistarle, invece, poca soddisfazione hanno dato gli incentivi 2013 per l'acquisto di nuove vetture. Come previsto, si sono esauriti in poche ore, con qualche possibilità ancora aperta per i veicoli destinati alle imprese. Il bonus riservato ai veicoli a basse emissioni complessive contava su una dotazione di 40 milioni di euro, di cui appena 4,5 a disposizione dei privati, corrispondenti, si era stimato, a circa 3.800 pratiche, due per concessionario. Andamento diverso, anche in questo caso ampiamente previsto, per gli incentivi rivolti all'acquisto di veicoli uso terzi e per esercizio di imprese con rottamazione. Merito forse del limite imposto per legge che subordina l'erogazione dell'incentivo alla rottamazione di un veicolo più vecchio di 10 anni, cosa rara in una flotta aziendale. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi in diretta sul tema bilancio familiare e costo dell'auto. Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, lo ricordo ancora, è la Federazione Italiana dei Concessionari. Per quello che riguarda l'andamento degli incentivi, si è verificato puntualmente quello che lei aveva previsto proprio ai nostri microfoni. Sono stati bruciati soprattutto quelli a disposizione dei privati nel giro di una giornata, presidente, e però invece per le aziende ancora qualche difficoltà. Sono andati già via tutti quanti, anche gli altri, per quello che le risulta? Allora, noi l'abbiamo previsto e l'abbiamo annunciato ai suoi microfoni, ma già praticamente dallo scorso anno che diciamo la stessa cosa, e sono stati bruciati in un'ora gli incentivi previsti per i privati e per una parte delle aziende. Praticamente di 40 milioni di euro che erano stati stanziati, tolti 600.000 euro di costi del Ministero, che quindi si sono già presi perché li devono spendere per le loro spese interne, ne rimangono 39,4. I 4,4 per i privati sono stati bruciati in un attimo, le aziende fino adesso nel loro complesso, quindi è passato parecchio tempo, non l'ora che è bastata ai privati, hanno assorbito solo 300.000 euro, perché come avete spiegato voi e come avevamo anticipato noi, non ci sono vetture aziendali che hanno più di 10 anni di anzianità e quindi questo incentivo è stato costruito senza tener conto della realtà del mercato, non conoscendo il mercato dell'automobile. Questi sono appunto i dati che abbiamo, i più recenti, commenti anche degli operatori di settore che appunto, come ci diceva il presidente Pavan Bernacchi, avevano già sollevato tutte le loro perplessità anche in fase precedenti appunto all'avvio di questa operazione. Qualcun altro invece dice meglio questo che niente. In tutto questo, presidente, il mese di marzo per le immatricolazioni non è andato proprio male, a giudicare, ricordando quello che era successo nei mesi precedenti, tutto sommato marzo ha permesso un risultato meno negativo del solito, quantomeno ad una cifra per quello che riguarda le immatricolazioni. I fattori sono tanti, sta cambiando un po' secondo lei l'aria o è troppo presto per dirlo o non cambierà affatto? Allora, purtroppo dobbiamo confrontarci col marzo del 2012 che aveva subito una flessione del 27% rispetto al marzo del 2011, anche per effetto dello sciopero delle bisarche che è andato anche alla ribalta delle cronache. Per cui il meno 4 rispetto a un mese disastroso che è stato l'anno scorso, dove ha perso quasi il 30%, quindi purtroppo non è un dato ancora positivo, è un po' presto per cantare vittoria, infatti noi stiamo aspettando aprile-maggio per vedere questo trend. In ogni caso il numero è questo: se viene confermato questo meno 4, meno 5% che noi auspicavamo a dicembre per quest'anno, vuol dire che il mercato andrà a circa 1.300.000 pezzi e vuol dire che abbiamo perso 700.000 pezzi rispetto alla media degli ultimi 5 anni, con un danno per lo Stato di 3.150.000.000, ripeto, 3.150.000.000 tra IVA e tasse che lo Stato non ha incassato, più il disastro che avviene sulla filiera. Allora, questo è il punto della situazione, Presidente, per arrivare invece al tema di oggi, sul quale vorrei anche delle considerazioni da parte sua. Come ha avuto modo di sentire nella nostra introduzione, noi vorremmo parlare un po' oggi di tutto ciò che attiene al costo dell'auto nell'ambito appunto del bilancio familiare. Un'auto va tenuta bene e va naturalmente però gestita anche in maniera ordinata, occorre fare una manutenzione ordinaria, spesso anche quella straordinaria, e poi chiaramente c'è anche un mercato che continua ad andare avanti per l'auto nuova, bisogna fare l'immatricolazione, bisogna fare anche tutte le varie pratiche appunto burocratiche che sono necessarie per la nuova, ma anche appunto nell'ambito dell'usato. Quando una famiglia, un interlocutore viene da voi appunto presso i vostri concessionari, si interessa fino a che punto anche a questi aspetti? Secondo lei è importante anche l'acquisto dell'auto in un'ottica poi della manutenzione che di questa va fatta? Appunto, si fanno delle domande su questi aspetti anche le famiglie italiane, Presidente? Guardi, sempre di più, perché per esempio lei citava all'inizio i carburanti e l'inchiesta di ieri su alcune compagnie petrolifere, no? Allora, sui carburanti noi sappiamo che lo Stato introita il 56% del prezzo alla pompa, no? Perché sull'1,9 che costa la verde circa, lo 0,7 va in accise, lo 0,3 va in IVA, quindi lo Stato prende 1 euro su 1,90, no? E la benzina incide nel costo totale di esercizio di una vettura per il 44%, quindi il cliente ne tiene conto perché sa che è una spesa determinante, quindi cerca vetture che consumano meno, oppure abbiamo avuto anche l'esplosione di vetture a metano, a GPL oppure ibride, proprio per cercare di contenere le spese alla pompa. Io devo dire che i clienti sono molto attenti a quello che è il prezzo, purtroppo stanno saltando sia le manutenzioni e cercano di fare le riparazioni, proprio quelle urgentissime. Questo si traduce sia in un rischio sociale, perché abbiamo un parco auto più pericoloso che sta girando sulle nostre strade, sia per un rischio anche per chi pensa di risparmiare, perché saltando le manutenzioni le riparazioni costeranno molto di più, e per cui è un finto risparmio. Io invito tutti a fare le manutenzioni corrette, a spendere meno più volte, che non a trovarsi con delle grosse cifre perché si è corsi senza l'olio del cambio, senza l'olio della vettura. Certo, su queste sue posizioni peraltro è in linea anche, lo sentiremo tra poco, Vincenzo Ciliberti, responsabile dell'area centri revisione della Confartigianato, che è ben consapevole del fatto che, come molte spese in questo momento, alcune famiglie rinunciano a farle. Io mi riferisco in particolar modo a quelle sulla salute, che non c'entrano in questa puntata di questa mattina, appunto proprio perché non ci si arriva fino alla fine del mese. Anche l'auto è una appunto delle priorità che cominciano ad andare in terza, quarta posizione, a costo anche di girare in condizioni di sicurezza inferiore rispetto appunto a quello che dovrebbe essere invece lo standard. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Peraltro, rimanendo, adesso ritorniamo sulla manutenzione, la revisione, perché vedo che già stanno arrivando tantissime considerazioni da parte delle persone che ci ascoltano, ma volevo farle una domanda appunto, Presidente, ancora a proposito degli incentivi che abbiamo toccato nella prima parte della nostra intervista. Un ascoltatore chiede di ricordare se questo incentivo per le aziende, che non so se non è ancora esaurito, vale anche per i veicoli commerciali o per le automobili. Allora, vale anche per dei veicoli commerciali e naturalmente devono avere delle emissioni non superiori ai 120 grammi e quindi nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico si trovano tutte le tipologie. Però è più facile vincere il Superenalotto che avere un incentivo statale, perché le condizioni per le aziende per poter accedere sono difficilissime. Come ricordavo prima, ci sono lì 35 milioni di euro fermi che le aziende non stanno chiedendo perché non hanno i requisiti, sono state spesi solo 300 certo. euro. Il requisito è quello che ci diceva sempre lei, avere un'auto da rottamare che abbia più di 10 anni, mentre le flotte aziendali naturalmente dopo 5 anni direi che è il caso che li mollino i mezzi. Ecco. Questo è, deve avere più di 10 anni di anzianità e il veicolo deve essere più da 12 mesi di proprietà dell'ultimo proprietario. Questo l'abbiamo fatto inserire noi, che è l'unica cosa intelligente, perché nelle altre rottamazioni cosa succedeva? Succedeva che i furbetti andavano da un rottamatore a comprare un rottame e poi andavano dal concessionario e lo versavano, no? Invece mettendo questa cosa che uno deve avere la vettura vecchia da più di 12 mesi, abbiamo evitato anche questo drenaggio di risorse non dovute. C'è una considerazione di Luca, di un ascoltatore, che dice: ci volevano dei professori universitari per capire che questi incentivi sarebbero stati inutili, peggio, una presa in giro. Gli italiani non hanno bisogno di queste cose. Noi abbiamo avuto anche un esponente del Ministero dello Sviluppo Economico nella puntata di marzo che abbiamo fatto, appunto, dedicata proprio a questo argomento, Pavan Bernacchi. Magari vale la pena ricordare che, a prescindere dal fatto che le considerazioni degli operatori del settore sono pessime su questa operazione, il tema è che in realtà il parco auto nel nostro paese si vorrebbe rinverdire, è proprio il caso di dirlo, quindi l'operazione era finalizzata fondamentalmente a questo, a parte, come dire, rivitalizzare il settore nel suo complesso. Beh, allora, innanzitutto purtroppo nei 13 mesi del governo tecnico noi abbiamo avuto un attacco frontale al mondo degli autoveicoli, ma si potrebbe dire per tutta l'economia basata sui consumi interni. Per quello che riguarda noi, hanno varato il super bollo per le auto prestazionali, hanno aumentato il bollo, l'IPT l'hanno aumentata, che è l'imposta provinciale dell'80%, l'accisa di carburanti ha subito 7 aumenti da quando c'è l'ultimo governo, hanno aumentato l'RC eccetera, hanno aumentato l'IVA, che ogni punto di IVA su una vettura sono mediamente 220 euro. Tutta questa cosa non ci voleva un professore universitario per capire che avrebbe depresso i consumi. Deprimendo i consumi si innesca una spirale negativa, dove meno consumi vuol dire che le fabbriche lavorano meno, e non parlo delle fabbriche che producono ma anche dell'indotto e di tutti i servizi, e quindi c'è meno bisogno di forza lavoro, si licenziano, si mettono in cassa integrazione, le famiglie hanno meno denaro a disposizione e riducono i consumi. È una spirale che, se noi non rompiamo, questo paese non può uscire da questa recessione. E intanto, per tutte le famiglie che l'auto ce l'hanno, che hanno potuto comprarla, naturalmente si apre il problema, la questione appunto della revisione dell'auto, della sua corretta manutenzione in ordine. Vincenzo Ciliberti, responsabile area centri revisione della Confartigianato, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei. Salva Danaio. Quanto ci costa la revisione dell'auto? Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio Autopromotech, nel 2012 gli italiani hanno speso 2 miliardi e mezzo di euro per far revisionare i loro veicoli, come previsto dal codice della strada. Rispetto al 2011, la spesa per le revisioni ha registrato un lieve calo, dovuto essenzialmente alla diminuzione degli autoveicoli revisionati, che nel 2012 sono stati 13 milioni e 46 mila, contro i 13 milioni e 400 mila dell'anno precedente. In media si spendono 105,75 euro per rimettere in sesto la vettura, con un incremento che, sulla base degli indici Istat, è stato dell'1,92%. La tariffa per la revisione vera e propria è ferma dal 2008, a quota 45 euro per quanto riguarda la quota destinata alle officine, mentre è salita, a causa dell'aumento dell'IVA, la parte destinata al fisco, pari a 20,15 euro. Auto quanto mi costi, oggi a Salva Danaio. Adesso è il momento di fare il punto della revisione, quanto ci costa. Vincenzo Ciliberti, centri revisioni Confartigianato. Cosa succede dal 10 aprile per chi avrà una revisione bocciata da parte del carrozziere di fiducia? Dunque, dal 10 aprile in effetti entra in vigore una nuova modalità operativa che prevede che non sarà più possibile effettuare operazioni di revisione in assenza di collegamento al CED, al CED o al portale dell'automobilista. Tanto questo è la questione più importante. Poi andiamo sulle altre. Cosa significa? Che oggi l'automobilista, il possessore dei veicoli, si rivolge a un centro di revisione privato, ha il servizio di revisione periodica in tempo reale. Quindi anche in assenza del funzionamento del CED, del Ministero dei Trasporti, che spesse volte non funziona. Il CED è il centro elaborazione dati, quindi la banca dati di raccolta di tutte le informazioni che arrivano da... Esattamente, è quello, diciamo, il sistema che stampa la certificazione dell'avvenuta revisione. Oggi, in assenza di questo collegamento, noi possiamo effettuare una certificazione provvisoria che poi la andremo a ritirare nel momento che consegniamo quella definitiva. Definitiva. Quindi si consente all'automobilista che ha l'auto con un po' di problemi, appunto, di circolare comunque liberamente, a meno che chiaramente l'auto non sia nelle condizioni di non camminare assolutamente. Dal 10 aprile questo non potrà essere più possibile, questa certificazione provvisoria. Esattamente, non è più possibile, perché non si può effettuare la revisione se il CED è fermo. E questo, come ripeto, non è un fenomeno che succede scarsamente, anzi è quasi un fenomeno che succede giornalmente. E d'altronde poi anche questi sistemi, per quanto possano essere efficienti, quando il flusso di dati si intensifica è normale anche che vadano in tilt in maniera più frequente, no? Indubbiamente, non a caso è stata studiata questa certificazione provvisoria per non creare disagio all'automobilista. Qui noi andiamo con questa norma che entra in vigore dal 10 di questo mese, aprile, è una sperimentazione già effettuata in Umbria e in Toscana, adesso viene estesa alla Liguria e alla Lombardia, laddove c'è una maggiore concentrazione di centri, quindi maggiori difficoltà di trasmissione dei dati. Quindi a questo punto l'automobilista che ha un veicolo sospeso dalla circolazione, in caso di assenza di collegamento, purtroppo dovrà lasciare fermo il veicolo o dovrà sostare nei centri di revisioni il tempo del blocco, che non sappiamo, a volte dura anche un giorno. No, anche perché poi se un'auto arriva per la revisione, magari ha un problema un po' più grosso del previsto, non è che si possa sempre risolvere in un'ora, due ore, mezza giornata, no? Magari anche proprio per il tipo di problema che si riscontra, la necessità di lavoro richiede più tempo. Detto questo, Ciliberti, leggo che qualcuno sostiene che è facile prevedere, appunto alla luce di questa novità che entrerà a regime, questa sperimentazione dal 10 aprile per alcune regioni, che molti automobilisti potranno fare ricorso ad una sorta di pre-revisione per arrivare al momento della revisione in una condizione, diciamo, di maggior sicurezza ed evitare di imbattersi in una problematica di questo tipo. Ma qualcuno dice già sarà un doppio costo, perché sommando questa cifra che si dovrà sostenere per la pre-revisione saranno qualcosa come 36 euro, leggo, questa cifra andrà sommata invece al costo della revisione vera e propria, che ammonta ad oltre 65 euro, per non parlare poi del problema che potrebbe essere riscontrato e che farà lievitare tutto il costo dell'operazione. È così? Sì. Guardi, mi consenta, io sono dell'avviso che una revisione a 36 euro significa creare dei maggiori costi all'automobilista, a chi ha un veicolo. Direi che questa è una strada da scartare, bisogna tornare a quello che è stato fatto con rispetto dell'automobilista e buon senso da parte dell'azienda che fa effettua revisione, a fare un controllo preventivo come succede adesso, suggerire a costo zero, perché noi abbiamo una vabbè, ma che differenza c'è tra controllo preventivo e pre-revisione? Controllo preventivo, quando l'automobilista si affaccia in azienda per sottoporre il veicolo a revisione, a quel punto un esperto è già in condizione di dire: guarda, se le gomme sono lisce, non è che le vediamo solo quando facciamo la revisione. Qui dobbiamo decidere, mettere le mani nelle tasche degli automobilisti o lavorare seriamente. Lo Stato ci sta dicendo che noi dobbiamo mettere le tasche nelle mani dell'automobilista. e noi questo non lo vogliamo in maniera più assoluta. Si ricordi che noi non siamo dei francescani, ma siamo delle aziende che puntano sulla clientela. Il patrimonio delle nostre aziende sono i nostri clienti, quindi noi dobbiamo tutelare questi clienti. Con la nuova normativa, che sarà operativa appunto dal 10, io non posso più sospendere un controllo, una revisione, perché una volta iniziata devo dare l'esito. Deve finirla, certo. Ma adesso noi la sospendiamo laddove vediamo che ci sono dei problemi, sospendiamo, non facciamo pagare nulla. La sospendete prima di avviare tutta la famosa istruttoria di inoltre informazioni al famoso CED, lei dice, ma no? Guardi, anche quando attualmente, anche quando è iniziata, facciamo la prova dei freni, vediamo che non va, diciamo subito al proprietario: guardi, lei deve andare in officina e fare questi lavori, ma questo noi lo facciamo a costo zero, che ormai noi lo consideriamo non un utente, per noi è un cliente. Certo. Da oggi non sarà più possibile farlo, perché lo Stato vuole incassare i suoi diritti prima dell'avvio delle operazioni. Quindi una volta incassati, lui dice, dovete fare la revisione. Esatto, non ce ne importa come finisce poi tutta l'operazione, se in qualche maniera il conducente, il titolare di quest'auto viene danneggiato con un'auto bloccata appunto per uno, mezza giornata, un giorno o due giorni. La fermo un attimo, ci liberti, chiedo ancora la disponibilità a Pavan Bernacchi, perché ho convocato ovviamente come sempre gli ascoltatori e non sono ancora riuscita a sentirli, però vorrei già sentire qualche considerazione. Ci sono tanti anche messaggi che stanno arrivando, adesso vorrei leggerne quanti più possibili. Alessandro da Bologna, buongiorno. Allora, quanto le costa la gestione dell'auto in famiglia? Buongiorno Deborah, buongiorno ai suoi ospiti. Dunque, la gestione, io sto parlando in una famiglia, diciamo media, 4 persone, abbiamo una macchina familiare, una utilitaria. Il parco macchine, diciamo aggiornato, è intorno ai 40.000 euro attualizzati, voglio dire, se la macchina viene calcolata anche l'obsolescenza del mezzo, e la gestione è circa un 10-15% del valore del parco. Mi spiego meglio, noi quando acquistiamo le macchine abbiamo fatto una valutazione di calo del prezzo del valore al nuovo, quindi al 50% del prezzo del valore al nuovo sostituiamo la macchina. Questo vuol dire che mi metto in carico una quota di reintegrazione mensile, sempre costante, e valuto il costo del mezzo. Una cosa volevo aggiungere, rispetto a questi costi, la revisione intanto è importantissima, i mezzi devono essere attualizzati, efficienti, sicurezza, diciamo, non ha costi e non ha prezzi. Un'altra cosa però che ci tenevo a far evidenziare è il fatto che i costi indiretti dei trasporti delle famiglie sono veramente costi pesanti, e in particolare i costi relativi ai bolli, le assicurazioni, ma anche il costo del deperimento del mezzo. Faccio un esempio: se io acquisto un'auto a 20.000 euro, dopo 4 anni ne vale 10, questo è un costo che la famiglia sostiene. Certo. Un aiuto sarebbe magari aiutare le famiglie con questo sgravio, qualche recupero di IRPEF, di IVA, di ICI, qualcosa, perché veramente il costo del trasporto, io chiaramente negli ultimi tempi dobbiamo sempre dare un'occhiata al bilancio familiare, sempre di più. Io ho visto che su un budget di 40.000 euro netti il costo del trasporto su 5.000 euro è tanta roba. Certo. Alessandro, grazie per la sua testimonianza, per il racconto di quello che succede a casa sua e anche per le sue idee. Vorrei sentire adesso anche Giuseppe dalla provincia di Belluno, che per la verità ci pone una questione che risolveremo tra qualche minuto con un terzo ospite. Intanto però ce lo dica. Giuseppe, buongiorno anche a lei. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Lei è sempre molto gentile e professionale. Grazie Giuseppe, grazie molto. Ci dica. Allora, tranne quando parlo del redditometro, dell'anagrafe e dei conti, perché là invece gli ascoltatori li faccio tutti quanti arrabbiare. È pazienza. Una cosa allucinante. Quindi no, io resto allibito della scarsa professionalità di politici laureati. Io preferisco non essere laureato a sto punto. Io ho 2600 clienti, tutte piccole e medie imprese, girando. Voi non avete idea di quanta gente potrebbe acquistare la macchina, ma lei si immagina uno che ha un'azienda piccola magari, pur essendo in regola, ripeto, non essendo un evasore, ma si andrebbe a rischiare a comprare una macchina che poi gli arriva un controllo, gli trovano un documento, una numerazione sbagliata? No, vabbè Giuseppe, qualcosa. In realtà sì, adesso magari questo è un tema che affrontiamo un'altra volta, ma mi scusi una cosa, io capisco anche la paura e il terrore, ma se questi soldi si tirano fuori perché sono frutto del proprio lavoro e si può certificare il modo in cui questo denaro è stato guadagnato, io non è che voglio dire tutte queste aziende con cui lei lavora vogliono comprarsi tutte delle auto a prezzi insostenibili. Se si comprano delle auto nell'ordine ordinario dei prezzi, perché devono aver paura? Questa no, è proprio il clima di terrore che si sta creando di fronte all'acquisto di qualsiasi cosa, quindi la gente non compra più neanche niente di niente. Vabbè Giuseppe, io raccolgo la sua considerazione, ma non sono d'accordo, però insomma sento che siete sempre di più a contestare tutto questo, dovrò prenderne atto con grande serenità. Ci fa la sua domanda, perché devo andare in pausa tra l'altro? Ci accorgeremo a fine anno di quanto caleranno i consumi. No, ma ci stiamo già accorgendo, guardi, stanno tracollando su tutto, per cui guardi, neanche più durante i saldi. Dobbiamo le famiglie vanno a comprare. La possibilità a chi ha i soldi di spenderli senza creargli 10.000 complicazioni. Giuseppe, cosa voleva chiedere? Volevo chiedere se avevano dei dati riguardo all'immatricolazione sul calo presunto riguardo all'editometro, cioè se hanno un dato. Ma non è questo il tema, io pensavo che lei volesse raccontarci il costo per il passaggio di proprietà, Giuseppe. Ecco, un'altra cosa, ecco, mi scusi. Allora, io ho fatto un passaggio di proprietà adesso di una macchina per la moglie, una macchina da 150 cavalli, è costata la bellezza in provincia di Belluno di 712 euro, di cui 520 mi sembra per quello che riguarda tassa solo al PRA e la provincia di Belluno. Se io fossi stato residente in provincia di Trento avrei pagato oltre 200 euro in meno. Eravamo quasi indecisi se cambiarla oppure no. Ah, Giuseppe, grazie. Salva Danaio. Il passaggio di proprietà di un'automobile? In Italia può costare diverse centinaia di euro. In Germania lo pagheremmo, in media, 40. Dal 2 aprile le pratiche del pubblico registro automobilistico, come la prima iscrizione, necessaria quando si acquista un veicolo nuovo, e il suo rinnovo quando si cambia proprietario, aumentano il loro costo di quasi il 30%, passando da 20 a 27 euro. Per i passaggi di proprietà ai commercianti servono 13,5 euro, contro i precedenti 7,44, mentre ne servono 9 anziché 6,2 per il certificato di stato giuridico. Per le visure si passa da 2,84 a 6 euro. C'è chi si lamenta e chi fa notare che queste tariffe erano ferme da 19 anni. L'aumento servirà a coprire il servizio di riscossione che l'ACI dovrà garantire alle province, gestendo gratuitamente per loro conto l'imposta provinciale di trascrizione, l'IPT. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei. E grazie per la sua partecipazione. Allora, sì, da 19 anni le tariffe non aumentavano, adesso arrivano un po' tutte insieme. Questa sorpresa, lei potrà comprendere il disappunto di tutti gli automobilisti. Le posso chiedere intanto di rispondere all'ascoltatore che ci ha chiamato prima? Non so se è riuscito a sentire la domanda. Io ho una differenza di circa 200 esattamente, euro tra Belluno e Trento per un passaggio di proprietà. Perché, presidente? Beh, perché Trento ha delle facilitazioni come provincia autonoma che non hanno le altre province d'Italia. Quindi Belluno nella norma, Trento diciamo è più agevolata per questo. Perché dà dei fassidi. Loro hanno una legge particolare e possono permettersi questo lusso. Però tenga conto che di questa cifra, come lei ben saprà, la maggior parte è tutta IPT, cioè vuole dire Ci traduce questo IPT, presidente, per favore. È l'imposta provinciale di trascrizione, ecco, che va a favore delle province. E quindi questo è quanto, insomma, però ecco, per avere un costo più contenuto delle pratiche di trasferimento di proprietà non possiamo andare nelle province autonome né a Trento né in altre appunto d'Italia, ma dobbiamo fare queste operazioni nella provincia nella quale viviamo, giusto, presidente? Certo, no, è corretto. Ecco, detto questo, allora. Fatto bene. Bene, certo. No, è giusto appunto che si sappia le motivazioni, non è perché là sono bravi e fanno degli sconti perché a Trento sono più così, esatto, oggi nelle condizioni. Non è uno sconto perché è un negozio, no, no, è uno sconto dovuto ad una questione appunto proprio istituzionale del nostro paese. Presidente, intanto arrivano questi costi in più e alcuni sono già a regime dal 2 aprile. Le pratiche del pubblico registro automobilistico costano in media 30% in più. Non è solamente una questione legata al fatto che da 19 anni appunto le pratiche non venivano aumentate per quello che riguarda i costi, sono sicuramente maggiori esigenze di cassa da parte dello Stato che è intervenuta anche in questo settore. Che tipo di conseguenze sta determinando tutta questa revisione tariffaria? Non è questo? No, non è così. Allora, l'adeguamento della tariffa che non si faceva 19 anni è un adeguamento Istat, ma che include... Tutto in una volta. Ringraziamo, diciamo che qualcuno ha goduto del fatto che per 18 anni non c'è stata, quindi diciamo che in questo senso il ritardo è a svantaggio di chi doveva prenderlo questo adeguamento. Comunque non è solo questo, tenga conto che la quota che veniva pagata dalle province è stata assorbita da questo aumento, quindi comunque c'è stato un assorbimento. Poi stiamo parlando, guardi, giusto per capire la dimensione di questo aumento, parliamo di, visto che mediamente uno cambia l'anno ogni 5 anni, di un euro l'anno, perché l'aumento è stato circa di 5 euro, quindi l'aumento, stiamo parlando di un euro in più all'anno. Tenga conto che rispetto alla benzina, e ahimè le polizze Ricci Auto, gli aumenti sono... Capisco che magari il costo, l'aumento può sembrare contenuto, fin anche addirittura irrisorio. Il tema è che siccome sta arrivando tutti insieme, Presidente, lei converrà che qua ci stiamo un po' cominciando ad indispettire per questa congiuntura astrale un po' strana, di aumenti a raffica su tutto, no? Quindi ecco, questo è il motivo per cui questo lo capisco perfettamente, però ripeto, giusto per dare le opportune dimensioni, l'aumento è un euro l'anno, cioè tutto il 30% pesa un euro l'anno nei confronti dei potenziali, cioè di colui che pensa di poter cambiare macchina, perché voglio dire colpisce soltanto coloro che vanno a cambiare macchina. Noi ci auguriamo che cambino macchina perché il mercato deve riprendere, e questo diciamo non vorremmo assolutamente che fosse un motivo perché si scoraggiasse. Cioè questo è una tassa che colpisce soltanto il passaggio di proprietà, ahimè il 95% va in tasse, bolli, IPT eccetera eccetera, gli emolumenti e quindi questa registrazione che va al PRA è proprio veramente irrisoria rispetto a quello che è il costo totale del passaggio, insomma, dell'onere di un passaggio di proprietà. Senta, sentiamo quello che ci racconta Sebastiano da Cuneo, poi siccome per la verità stiamo già andando verso la conclusione, ho poco più di 4 minuti, magari faccio fare una battuta finale a tutti gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia questa mattina. Abbiamo affrontato tanti temi, magari ognuno aveva sicuramente la dignità di essere approfondito ancora di più, però il tema è che l'auto, insomma, comincia a diventare veramente un piccolo lusso per molte famiglie. Sebastiano da Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scuso se per caso l'argomento è stato trattato e faccio ripetere, ma una domanda che volevo fare agli esperti, e che più che una domanda forse anche un'affermazione, è questa: ma da quando il passaggio di proprietà di un'auto usata è passata dal svolgimento della pratica dai notai alle agenzie pratiche auto, di quanto è aumentato il costo al netto delle tasse? Sebastiano, guardi, qua mi coglie assolutamente a me di sorpresa, non saprei dirle. Sticchi Damiani, lei lo sa? Sì, so benissimo, quello del passaggio dal notaio, cioè quello che non si va più al notaio è sicuramente un risparmio, non c'è stato un maggior costo perché non si va al notaio, per carità di Dio, non diciamo questa cosa. Cioè praticamente prima si pagavano almeno 40-50 euro per avere identica al notaio, adesso non si pagano più, quindi quello non può essere considerato un costo spostato da una parte all'altra, assolutamente, è un risparmio secco. Allora, io non so veramente tra le tante considerazioni che ci stanno arrivando degli ascoltatori quale scegliere, vabbè, a parte se aboliamo le province si risparmia l'imposta appunto di trascrizione, l'assicurazione in Bulgaria 300 euro, perché farla in Italia, vabbè, qua apriremo un altro altro dibattito che veramente questa mattina non voglio neanche lontanamente affrontare, come andare a fare le cure low cost appunto da un altro paese. Facciamo in modo che questo paese invece si renda più vivibile per tutti, piuttosto che pensare di andare altrove. Che cosa volevo leggere? Adesso non le ritrovo più, perché davvero ci state scrivendo in tantissimi. Chiudiamo magari con Filippo Pavan Bernacchi, che sono sicura aveva in punta di lingua un commento da fare sul tema delle molte meno auto che si venderanno da qui ai prossimi mesi, appunto per effetto appunto dei nuovi meccanismi di accertamento fiscale. Voleva intervenire sulle considerazioni fatte dall'ascoltatore precedente? Ne sono certa. Tre cose rapidissime. Allora, sulle revisioni, quello che succede il 10 aprile è che potenzialmente gli automobilisti dovranno aspettare molto, perché è caduta la linea di collegamento, e questo è inaccettabile, perché noi abbiamo il front line col cliente, il cliente non ha tempo da perdere e noi non vogliamo fargli perdere tempo in burocrazia. Alessandro da Bologna parlava di aiutare le famiglie, per esempio con un credito d'imposta. Noi siamo favorevoli non per l'acquisto dell'auto, perché noi vogliamo degli incentivi per l'acquisto dell'auto, ma il credito d'imposta va benissimo per le manutenzioni e per le riparazioni, perché obbliga le officine a fare le ricevute fiscale e noi taglieremo fuori quelli che ci fanno concorrenza sleale, che lavorano in nero. Giuseppe parlava delle auto di lusso e ecco, questo non vorrei che venisse fatta confusione. Allora, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno il dovere e il diritto di controllare e di verificare. Quello che noi contestiamo sono i controlli su strada, perché una persona non può essere fermata 10 volte, 15 volte all'uscita del casello perché ha una vettura prestazionale. Quindi è sul modo in cui viene portata avanti questa lotta. In Europa si può dedurre il 100% del costo delle vetture aziendali, da noi era il 40, il governo Monti l'ha portato al 20, quindi ha devastato anche il mercato delle vetture aziendali. E abbiamo appena dimostrato e presentato ai ministeri competenti che il fatto di il superbollo legato poi a dover mettere nell'F40, nella dichiarazione dei redditi, la vettura posseduta, perché il bollo delle vetture prestazionali si paga nell'F40 e non come un bollo tradizionale, ha bloccato gli acquisti, perché naturalmente il contribuente ha paura, anche quelli che sono a posto hanno sempre paura di essere fermati continuamente sulla strada e di ulteriori verifiche. E quindi quello che però blocca le aziende in questo momento, e concludo, è manca la fiducia nel futuro, per cui chi ha anche dei soldi, quella che si chiama fiducia del consumatore, se li tiene da parte, certo, perché ha paura di quello che può succedere. Ma io direi, esatto, non tanto solamente per la questione legata ai meccanismi un po' più severi di accertamento fiscale. Qua c'è un rischio paese un po' più complessivo e che turba tutti, e su questo io assolutamente condivido anche appunto le espressioni a volte anche un po' troppo colorite dei nostri ascoltatori, ma su questo è vero, perché banalmente solo raccontando certe giornate di borsa che ci spaventano mi spavento anche io, per cui questo è ragionevole. Questo non significa che so magari in mente di farmi una cosa nuova per casa perché mi serve, mi blocco rigidamente. Poi chiaramente c'è anche tutto l'aspetto del lavoro, che è tutta un altro paio di maniche. Grazie a Filippo Pavan Bernacchi. Ci liberti, magari la richiamo, rifacciamo un punto per lei solamente con la revisione. A tutti buona giornata, a lunedì.